Quando la luna vien su dai monti, l'istilina sola soletta vola, vola, vola a far l'amor. Ma quando ecco la presenza di tre ronfioni in cima per farsi alla listilina la prepotenza. Listilina in duolo, in pianto, per la sorpresa e il timore. Aiuto, aiuto, vogliono strapparmi il mio primo fiore. In ginocchio la pianse e la chiama, fa preghiera la Santa Rita. Soccorrimi, fammi, ti prego, salva la vita. Ed ecco un volo di angeli la porta lontana di fretta, felice in braccio allo sposo che è lì che l'aspetta.